diritto di Stefano Folli. Da un lato i due giudici della Corte Costituzionale che il Parlamento non sa o non vuole eleggere, dall'altro la riforma del lavoro che come sembra destinata ad arenarsi. Cosa sta succedendo? In buona misura i problemi sono all'interno del PD e hanno a che fare con la ribellione sottintesa di una fetta del partito, o meglio del gruppo parlamentare, nei confronti di un leader il cui carisma dopo il trionfo delle europee si sta appannando con i primi freddi d'autunno. Bersani lo ha detto chiaro, non puoi governare senza il nostro 25%. E allora bisogna trovare il terreno per un accordo a tutto campo. Quale? Gli emendamenti sulla legge del lavoro, certo, nel merito tutti i dissidi sarebbero componibili, ma forse c'è di più. Sullo sfondo si intravede la legge elettorale, il vero terreno della sfida. Renzi la concepisce come lo strumento per ridurre ai minimi termini l'opposizione interna, portando in Parlamento chi vuole lui. I suoi avversari vogliono ovviamente l'opposto e senza un'intesa su una legge equilibrata anche il resto rischia la paralisi.